pensavo di non farcela più attraversare questa giornata piena di scatti e accelerazioni, frenate improvvise, ingorghi e abrasioni. Sono partito con un traguardo, il petto in fuori, lo sguardo testardo, mete lontane cui correre incontro, ma il traffico è impazzito sulla via del ritorno. Sempre solo un problema di ritmo, è sempre solo la punteggiatura che mette in sfida chi parte da riva, l'onda da cresta, la spiaggia da riva. È sempre solo un problema di accenti, è sempre solo la nostra natura che conta i passi, che parte da riva, corre sul filo per restare vive. Scendo per strada, vorrei essere altrove, tira un gran vento, finisce che piove. Se tiro il fiato mi cerca un ricordo, note lontane che cercano l'accordo. Il fiume scorre, non accenna a fermarsi, il vento spinge, non vuole calmarsi. Volti e persone in un turbine giallo, e il semaforo che grida dal suo piedistallo. È sempre solo un problema di ritmo, è sempre solo la letteratura che mette in fila chi parte da riva, l'onda da cresta, la spiaggia da riva. È sempre solo un problema di accenti, è sempre solo una sfumatura, la nostra sorte che parte da riva, corre sul filo per restare viva. Ho conosciuto la vergogna e il coraggio, il sole caldo, la gioia di un raggio, l'amaro, l'aspro, il dolce e il salato, il buio che stringe, il suolo gelato, stagioni terse tese sul vuoto, l'affascinante richiamo dell'ignoto. Le tentazioni che non sono più quelle, la mano invecchiata di Mademoiselle. È sempre solo un problema di ritmo, è sempre solo la punteggiatura che mette in fila chi parte da riva, l'onda, la cresta, la spiaggia e la riva. È sempre solo un problema di accenti, è sempre solo la nostra natura che conta i passi, che parte da riva, corre sul filo per restare viva. Thank you. mangio in silenzio nel buio della stanza. Devo scoprire il ritmo della danza. Non cercar più di possedere il presente, un passo per volta, poi quello seguente. Non cercar più di possedere il presente,